racconti d'autore, i grandi della letteratura. Solo domenica 10 maggio, in edicola Andrea Camilleri, a 50 centesimi, con Il Sole 24 Ore. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio, e cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Questa sera a cena parliamo di temi che riguardano la patria e l'essere italiani. Che cos'è un italiano? Cosa fa di una persona un italiano? L'appartenenza a una razza? Forse il sangue, un'idea di patria? Oppure la storia con la S maiuscola? Qualunque sia la risposta, se mai ci sia una risposta e se abbia senso cercarla, c'è una vicenda abbastanza sconosciuta che vale la pena di scoprire o riscoprire, ed è quella dei partigiani neri che lottarono per la liberazione dell'Italia. È una storia appunto che pochi conoscono. In questi giorni proprio ricorre l'anniversario della morte di uno di questi giovani che a solo i 22 anni, 4 maggio 1945, morì proprio come partigiano. È la storia di Giorgio Marincola. Ne parleremo con due autori che hanno scritto Razza partigiana, storia di Giorgio Marincola, e sono Lorenzo Teodoni e Carlo Costa. Buonasera. Buonasera. Lorenzo Teodonio, come mai avete deciso di raccontarla? Noi siamo incappati in questa storia grazie a un altro partigiano, Mario Fiorentini, che è una persona ora 97 anni a cui siamo molto legati e che ogni volta ci racconta altre storie di altri, diciamo, compagni di lotta, di altri partigiani. Nel 2005 ci raccontò questa storia, in particolare la raccontò a me. Comunque, appena saputa questa storia, ho avuto la fortuna, sempre tramite Mario, di conoscere Carlo, che è l'altro autore di questo libro, e quindi subito abbiamo capito che quella era una storia che avrebbe detto molto, perché la Resistenza ha molte storie interessanti, ci sono molti percorsi individuali particolari, ma questa di Giorgio ci è sembrata particolarmente importante proprio perché era il figlio della colonia e quindi c'era tutto l'elemento dell'Italia coloniale che sempre viene sottaciuto e di cui non si parla mai. C'è l'elemento della Resistenza e in particolare del ruolo del Partito d'Azione, pure, che diciamo è una cosa un po' misconosciuta, di cui si parla di meno. Il terzo elemento era la vicinanza con Pino Albertelli, quindi il ruolo che hanno avuto gli insegnanti nel determinare certe scelte. Il quarto elemento, il finale, è proprio il fatto che Giorgio sia morto il 4 maggio, quindi una decina di giorni dopo il fantomatico 25 aprile del 45, quando tutti noi festeggiamo la fine della guerra, ma in realtà non è stata la fine della guerra, anzi, in quella coda tra l'insurrezione in generale il 25 aprile e la fine della guerra ci sono stati molti eventi spiacevoli, tra cui appunto quest'ultima strage in territorio italiano, a Stramentizio e a Molina di Fiemme, quindi in Val di Fiemme. Questa strage in cui appunto hanno ucciso Giorgio e un'altra ventina di persone, radendo al suolo un intero villaggio. Ma chi era Giorgio Marincola, Carlo Costa? Come divenne italiano? Chi erano la mamma, il padre? Dunque, Giorgio era figlio di un militare italiano calabrese e di una donna somala. Come la sorella Isabella, di 2 anni più giovane, Giorgio era nato nel 23, Isabella nel 25, il padre li riconobbe, li battezzò, Giorgio ed Isabella vengono portati dal padre in Italia nel 26, mentre il primo venne affidato al fratello del padre, quindi allo zio, e visse a Pizzo Calabro fino al 33, fino a 10 anni. Isabella andò a Roma, visse con la famiglia che il padre si costruì, la famiglia bianca che il padre si costruì, e principalmente con la matrigna, diciamo, e con i due fratelli bianchi che nacquero negli anni successivi. Fu una scelta, al di là delle motivazioni di fondo, determinante per la vita di questi due bambini, perché se Giorgio crebbe in un ambiente destrutturato, come poteva essere quello della Pizzo Calabro degli anni 20, e quindi con una certa libertà e anche in un clima di maggiore affettività, Isabella nella casa paterna ebbe un rapporto molto complicato con la madre, ebbe un rapporto molto complicato anche con Roma, perché Roma naturalmente si stava avviando a diventare la vetrina propagandistica del fascismo, soprattutto nella sua fase imperiale, quindi con una crescente tematica razziale che poi appunto nella seconda metà degli anni 30 andrà a colpire in un certo senso le persone come Giorgio e Isabella, cioè i mulatti, in una sorta di, diciamo, esperimento che poi verrà applicato attraverso le leggi anti-ebraiche contro le persone di religione ebraica. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died. Lorenzo Teodonio, poi Giorgio Marincola andò a Roma, fece il liceo a Roma e lì conobbe questo intellettuale, insegnante di storia e filosofia, antifascista, Pilo Albertelli, che lei ha citato prima, no? Che lo educò un po' al dubbio, al dissenso, alla giustizia sociale. Fu un incontro importante. Sì, era un ambiente piccolo, borghese, tendente al proletario, quindi anche lì un antifascismo quasi naturale c'era, tant'è vero che tutti i suoi compagni di classe sostanzialmente non erano assolutamente fascisti, e in questo milieu già abbastanza contrario al fascismo la figura di Albertelli polarizza tutta questa sentore, questo afflato antifascista, e riesce a costruire, e infatti poi la classe di Giorgio saranno vari che seguiranno Albertelli dopo aver studiato con lui, seguiranno Albertelli anche nella lotta partigiana. Albertelli è un antifascista storico e di Parma, professore di storia e filosofia, che appunto studiava con Calogero, quindi aveva tutta in sé aveva tutta quella tradizione italiana del liberalsocialismo. Poi nel 1943 diventa studente di medicina e all'indomani della liberazione di Roma, il 4 giugno 1944, prende la decisione di continuare la resistenza. Viene anche arrestato, parla anche a una radio fascista che gli sottopone dei copioni da leggere e lui invece si ribella, no? Riafferma la sua convinzione di libertà. Insomma, fino, diciamo, a quando viene anche incarcerato in un lager. E poi perde la vita, lo dicevamo nel 45. Una vita quindi votata proprio alla lotta partigiana. Che senso ha oggi ricordare la sua figura? E noi abbiamo voluto intitolare questo libro Razza Partigiana e abbiamo chiaramente messo all'inizio una frase di un grande genetista italiano che chiaramente afferma che la razza in sé non esiste, Barbugliani. Quindi abbiamo voluto un po' forzare e utilizzare questo termine forte, razza, che una parola che non bisognerebbe usare perché appunto la biologia ci ha insegnato che non è un termine scientificamente valido, però poi sta anche nell'articolo 3 della Costituzione, quindi è una parola un po' particolare. Giorgio a un certo punto della sua vita decide di in qualche modo appartenere a questa razza, che è appunto quella partigiana, basandosi semplicemente su un afflato ideale, su una scelta ideologica. Lui, dopo aver fatto la resistenza a Roma, poteva anche semplicemente dire: va bene, io ho combattuto, ho fatto un po' di cose per liberare questo paese, ora potrei continuare la mia carriera di medico. E invece lui continua a scegliere questa razza partigiana. Tra l'altro poteva riparare in Svizzera, invece questo disubisce e continua la lotta partigiana. Sì. Ci dobbiamo fermare brevemente, ma torniamo a parlare di Giorgio Marincola, ma anche di altri partigiani neri che hanno contribuito alla liberazione dell'Italia tra pochissimo. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani oppure mai. Pezzi di Vita Tour dal 18 aprile nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Modena City Rambers in questa versione di Bella Ciao per parlare della resistenza dell'epica partigiana, che non è così monolitica, compatta come si vorrebbe, no? Come è stata anche raccontata. Stiamo parlando dei partigiani neri con questo libro Razza Partigiana, storia di Giorgio Marincola, di Lorenzo Teodonio e Carlo Costa. Carlo, questa è una storia che dovrebbe essere raccontata nelle scuole, secondo me, no? Sicuramente sì, perché contiene in sé, diciamo, oltre a naturalmente la vicenda personale di Giorgio Marincola, anche molti elementi che aiuterebbero a nostro parere a una semplice e più corretta trasmissione della storia della resistenza italiana, della seconda guerra mondiale in Italia, ma anche alla storia coloniale. È una trama, quella della sua storia, che secondo me potrebbe essere messa su uno schermo. È una cosa che vi ha in qualche maniera, un pensiero che vi ha attraversato, qualcuno ve l'ha proposto? Noi siamo molto contenti di Razza Partigiana, soprattutto perché dal libro poi sono nate molte altre cose. È nato un libro sulla sorella che si chiama Timira, che ha pubblicato l'Einaudi. È nato, sempre a proposito di partigiani neri, in qualche modo anche un filone di ricerca su tutto un gruppo di partigiani etiopi che hanno combattuto nel maceratese, in particolare c'è la figura di Carla Bamigal. E appena fatto il libro nel 2008 era chiaro che uno sbocco cinematografico ci sarebbe piaciuto. Abbiamo avuto vari abboccamenti, ma per ora non è stato mai fatto nulla, quindi però sicuramente è una via che ci piacerebbe percorrere, proprio perché è una storia, è una storia sicuramente affascinante. Io vi ringrazio e vi saluto. Lorenzo Teodonio e Carlo Costa, autori di Razza Partigiana, storia di Giorgio Marincola, per Iacobelli Editore, grazie per essere stati con noi stasera. Grazie a voi, buonanotte. Da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano e tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Io do la buona serata invece a un altro ospite che ci ha raggiunti, che è Mauro Valeri. Buonasera Mauro. Buonasera. Allora, scrittore, professore, era membro dell'Osservatorio sul razzismo nel calcio, l'abbiamo avuto spesso come ospite quando si parla di calcio e razzismo, lui insomma è il grande esperto, ma è un esperto anche appunto uno storico e ha scritto questo bel libro su Alessandro Sinigaglia. Un libro che già dal titolo, vorrei che ce lo ricordassi tu Mauro, ci dice qualcosa su questo personaggio, anche lui partigiano. Si chiama Negro Ebreo Comunista, che un po' richiama anche la canzone di Guccini, perché all'epoca era Alessandro Sinigaglia nasce nel 1902, quindi in quegli anni essere neri, ebrei e comunisti era un po' un qualcosa di negativo, erano tre epiteti che venivano utilizzati anche in maniera dispregiativa. Nel 1902 nasce a Seso, una frazione si chiama San Domenico, e nasce in una villa, di una villa molto famosa, si chiama Villa Smith, dove viveva una famiglia americana, e questa famiglia americana aveva portato appunto dall'America anche una domestica afroamericana che si chiama Cynthia White, che in questa villa conosce un meccanico che si chiama Davide Sinigaglia, e dalla relazione tra Davide e Cinzia nasce appunto Alessandro, che quindi è nero per via della madre, ebreo perché anche per il legame che ha col padre, e poi un comunista perché poi in realtà lui negli anni 20 decide di far parte del Partito Comunista Italiano. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare. Io falso, io vero, io genio, io cretino. Io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco, saper usare no ad un certo metro, compagni il gioco. Come mai tu ti sei appassionato a questo partigiano, a questo eroe della resistenza? Diciamo perché in realtà Alessandro Sinigaglia è famoso essenzialmente perché è il nome della brigata fiorentina, che è stata la prima brigata partigiana a entrare a Firenze liberata nell'agosto del 44, quindi diciamo che c'è questa nomea di essere famoso perché tutti sapevano che esistesse una brigata col nome Sinigaglia. Devo dire che la storia di Alessandro Sinigaglia invece pochissimi la conoscevano. Non avendo parenti in Italia, lui è finito molto nell'oblio, tant'è che lui ha avuto, dopo la sua morte, la medaglia d'argento al valor militare, che non è stata mai consegnata perché appunto non esistevano parenti più in Italia. C'è una lapide in via Pandolfini a Firenze che ricorda, no, proprio la medaglia d'argento al valore militare di Sinigaglia. Diciamo, lui c'ha una particolarità, secondo me, poi abbastanza interessante proprio per dare uno spaccato dell'Italia di quegli anni, perché intanto non ha niente a che vedere con le colonie, e questo è un dato che ci dovrebbe far riflettere quanto l'Italia fosse anche più un paese multietnico, multiculturale e multireligioso. La seconda caratteristica, anche rispetto a altri, per esempio anche a Giorgio Marincola e altri partigiani, è che lui è uno dei pochissimi ad avere la madre nera in Italia, perché purtroppo in Italia c'era questa abitudine, anche quando nascevano figli meticci nelle colonie, tendenzialmente veniva abbandonata la mamma nelle colonie perché sarebbe stato uno scandalo portare una donna nera in Italia, e a volte anche i figli venivano lasciati. In questo caso invece Alessandro è un ragazzo che nasce in Italia e vive fino a 18 anni, fino a quando la mamma non muore, con la madre nera. Questo è importante anche secondo me da un punto di vista di identità, perché lui il colore della pelle lo ha sempre sentito come una variabile molto importante e anche molto positiva, perché gli ricordava la madre, e si racconta che anche negli anni in cui lui poi è diventato anche un comandante partigiano avesse sempre la fotografia della madre nella tasca della giacca, ma la faceva vedere solo a poche persone perché sapeva che comunque esistevano i pregiudizi contro i neri anche in ambienti come quelli che potevano essere della sinistra. Che mi sono sbagliato, e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati i libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse da arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia. Questa, secondo te, Mauro, che ti sei occupato molto, ti occupi di razzismo, di pregiudizio in vari ambiti, come abbiamo detto, in quello sportivo attualmente, poi nelle tue ricerche storiche. Questa è una storia, questa è quella di Giorgio Marincola. È una storia dimenticata o rimossa? Non è una storia rimossa, per tanti motivi, a volte sono motivi così, diciamo, culturali. Per esempio, penso che sia proprio una scarsa volontà di voler comprendere che l'Italia era un paese molto più multietnico, multirazziale, multireligioso. Ci siamo raccontati una storia dopo il fascismo che siamo tutti ariani, siamo tutti quanti della stessa religione, siamo tutti lo stesso colore della pelle, quindi spaventa molto e spaventa un po' tutti questa, diciamo, queste variabili. A me è capitato di presentare il libro anche con degli storici, il libro su Alessandro Senigallia, e a un certo punto uno storico mi ha detto: ma sì, ma poi è diventato bianco, perché non sappiamo gestire che cosa voleva dire essere neri in quell'epoca, e quindi alla fine riduciamo e neghiamo anche il fatto di questa realtà italiana molto più articolata. Poi c'è una variabile politica che nel libro è presente, perché al di là del, diciamo, dei racconti un po' eroici che vengono fatti anche sulla resistenza, io non sono riuscito a capire il perché Alessandro Senigallia, che appunto è stato da quando aveva 24 anni un militante e un dirigente del Partito Comunista, ha fatto un'esperienza in Russia nella scuola di formazione, poi è andato a combattere in Spagna, poi è stato nei campi di concentramento francesi, poi è stato al confino. Poi dopo l'8 settembre è stato nominato comandante politico e militare dell'area fiorentina, viene ucciso perché in un agguato da un gruppo nazifascista della Banda Carità, e però lui gli viene data la medaglia d'argento. Ora, non è che a me interessa tanto il valore delle medaglie, però è indicativo il fatto che, come chiedo nel libro, che cosa doveva fare di più un combattente all'epoca per l'Italia, per essere riconosciuto come vero, come dico, un simbolo vero anche rispetto alla medaglia che gli viene data. E lì penso che ci siano state delle storie non, come dire, non molto trasparenti anche su dei meriti che in realtà aveva Alessandro Senigallia, e secondo me non gli sono stati riconosciuti, e questo ha favorito ovviamente anche la sua rimozione, quindi è stato abbastanza negato poi nella storia, anche in una parte della storia della resistenza. Pochi sanno per esempio che era lui il comandante dei gruppi di azione patriottica, cioè che erano i combattenti per la libertà, che non stavano in montagna, non erano i partigiani che stavano in montagna, ma facevano delle azioni anche militari dentro la città di Firenze soltanto con la bicicletta e con la pistola. E che lui fosse un comandante importante, non è stato quasi mai valorizzata questa cosa. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, si parla tanto di integrazione e di scuola. Ecco, una figura come Alessandro Sinigaglia o una diversa figura, perché appunto, come hai ricordato, l'origine era molto diversa, di Giorgio Marincola, possono essere comunque delle figure della resistenza nelle quali i nostri bambini di colore nelle scuole in questo momento possono in qualche maniera identificarsi per ritrovare anche in questa nuova patria un'identità più forte? Assolutamente sì, a me è capitato di fare una presentazione con dei ragazzi di seconda generazione, anche molti loro erano scuri di pelle, e mi ha impressionato perché una ragazza in particolare ha detto: io sono molto orgogliosa di questa storia perché potrò sempre dire che c'è stata una persona prima di me che aveva la pelle come me, che ha combattuto per la libertà dell'Italia. Però già ricordare che c'erano neri in quel periodo, che erano ragazzi come tutti gli altri, cioè avevano le stesse passioni, avevano le stesse fantasie, gli stessi desideri, secondo me questo è un filone che andrebbe molto più valorizzato. Io ti ringrazio per essere stato con noi questa sera, per averci raccontato anche tu uno spaccato dell'Italia che forse conosceva molto poco. Grazie Mauro Valeri. Grazie a voi, buona serata. E prima di chiudere la nostra rubrica sui libri, anche questa settimana vi proponiamo un libro che ha come tema la migrazione. Questa settimana è Il re clandestino, un libro di Fahim Mohammad, edito da Bompiani. È la storia di questo ragazzino di 14 anni, Fahim, piccolo genio degli scacchi, originario del Bangladesh, e della sua storia di immigrato senza documenti, scappato dal Bangladesh nel 2008 insieme al padre Nura, e che diventa appunto un campione degli scacchi in Francia, che presto tra l'altro diventerà anche un film. E la puntata di oggi è davvero finita. Io ringrazio in regia Paolo Corleoni per l'assistenza tecnica, tutti voi per l'ascolto. Un arrivederci a sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory.